Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Un caso di lupara bianca a poche centinaia di metri dal Duomo, le piazze principali dello spaccio delle cosche poco più in là. Un sindaco dell'Interland arrestato. Milano si sveglia e si riscopre ancora una volta feudo di 'Ndrangheta. Il cuore della capitale economica d'Italia si abbraccia con un solo sguardo dalle finestre dell'ufficio del procuratore aggiunto Alberto Nobili. Un cuore sempre più malato di malavita organizzata che entra negli affari e già ci sono inchieste su infiltrazioni nell'Expo, sentiremo tra poco, ed è sempre più in grado anche di condizionare le elezioni, soprattutto di alcuni comuni. Nobili si occupa di 'Ndrangheta da tempo, dal sequestro Sgarella e ora fino agli arresti per il delitto di Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia uccisa e sciolta nell'acido. E allora partiamo da qui. Queste sono ennesime conferme di, ahimè, una presenza forte, una radicata nel territorio e estremamente pericolosa. La vicenda della Garofalo è soltanto un ennesimo riscontro. Dire che la lupara bianca è una realtà che è considerata erroneamente lontana, secondo me non vuol dire che a Milano siamo ricchi di casi di lupara bianca, che però le modalità di azione tipiche della mafia, in particolare quella calabrese che più è presente qui al nord, tra le quali la lupara bianca, sono soltanto una manifestazione di una modalità tragica, diciamo, di risoluzione di conflitti dell'Ndrangheta che non viene a mancare neanche qui al nord. Lea Garofalo, una donna, una collaboratrice di giustizia, secondo l'ipotesi vostra sarebbe stata uccisa per le sue rivelazioni su traffici di droga e omicidi. Più di tanto non credo di poter dire, per quella che è l'opinione che ci siamo fatti, la causale della morte della Garofalo è una casuale multipla. Sono diversi fattori che hanno indotto il marito, poi i suoi gregari, a eliminare la Garofalo, tra i quali sicuramente anche il fatto che aveva collaborato. Il fatto che in certi gruppi, i gruppi mafiosi, una collaborazione all'interno del gruppo di una persona facente parte di una famiglia in senso, diciamo, mafioso, è bene che sia punita dagli stessi appartenenti al gruppo. È un modo quasi per tutelarsi e garantire che non si ha a che fare con la persona che ha collaborato, tant'è che la stessa viene punita dagli stessi suoi ex, diciamo, persone vicine. Ma non è solo questo, c'erano anche forti rancori di carattere personale, familiare. La Garofalo era in dura situazione di conflittualità con il suo convivente. Temevano anche che la Garofalo potesse aver svelato alcuni retroscena di altri omicidi, probabilmente riconducibili alle stesse persone che ora sono state tratte in arresto, e quindi ci dicono, almeno l'ipotesi è che lei sia stata torturata prima di essere uccisa, proprio per coprire l'ambito delle sue dichiarazioni. È vero che era uscita, aveva chiesto personalmente di uscire dal programma di protezione? Guardi, sì, però ecco, su questo punto sinceramente preferirei non approfondire in questa sede, proprio perché sono in corso alcune verifiche. È una storia molto delicata e con una fine tragica, per cui, diciamo, qualsiasi parola potrebbe anche essere equivocata. Al di là dell'utilità per altre indagini, per voi, delle rivelazioni della Garofalo, resta il fatto che abbia parlato molto dei traffici di droga, della spartizione delle piazze di droga tra famiglie mafiose calabresi. Si è sempre detto che la 'Ndrangheta abbia quasi il monopolio, è così? Sicuramente la 'Ndrangheta è la compagine mafiosa che caratterizza di più la Lombardia, e anche il regime del traffico degli stupefacenti, in particolare della cocaina, vede la 'Ndrangheta strettamente collegata con i narcotrafficanti colombiani, sudamericani in genere, con un fortissimo spazio di mercato non solo a Milano e in Lombardia, ma direi in tutta Italia e anche nell'Europa occidentale, con forti presenze in questi ultimi anni anche nei paesi dell'est. La droga resta il business, resta il serbatoio principale, direi che il 75-80% degli incassi, diciamo, proventi delle attività illecite continua ancora oggi a venire dal traffico degli stupefacenti. Milano si calcola abbia circa 120.000 consumatori abituali. La mafia calabrese si è caratterizzata poi dal reinvestimento dei proventi, non solo dei traffici di droga, ma di tutte le altre attività illecite che pone in essere, nei settori classici, tradizionali ormai per noi dell'edilizia, degli schiavi, del movimento terra, una forte penetrazione con connivenze, con collusioni anche con un ambiente dell'imprenditoria del nord, storicamente e originariamente estraneo a queste infiltrazioni, e che ormai sempre di più e spesso capita, appunto, come accertiamo nelle nostre indagini, strizza l'occhio alla mafia, fa affari con la mafia e con quindi una preoccupante apertura commerciale e economica alle infiltrazioni mafiose nel circuito degli affari, diciamo. Non a caso la vicinanza dell'Expo 2015 crea parecchia attenzione, crea allarme. Ci sono già in campo forze investigative che cercano di prevenire forme di ingresso, diciamo, occulto, ingresso anfibio, diciamo. E segnali invece di tentativi di infiltrazioni già ci sono? Segnali già ci sono oggetto di indagini, quindi ecco, ma nessuno poteva essere così ingenuo da immaginare che la mafia restasse estranea da questa grossa torta che sta per essere spartita. Non c'è grande opera pubblica in Italia, dall'alta velocità alla ricostruzione in Abruzzo, al ponte sullo stretto di Messina, cioè, che non vede presenti i fortissimi rischi di una infiltrazione mafiosa. Tra le pieghe di quest'ultima ordinanza di custodia cautelare si parlava di possibili infiltrazioni nei lavori della metropolitana 5. Ci sono state in passato anche delle inchieste vostre qui milanesi che hanno parlato di tentativi di acquisire una banca in Svizzera, altre operazioni anche finanziarie, anche più sofisticate. È così? Sicuramente la mafia segue i tempi. Il mafioso che rischia di minare la solidità, la stabilità della nostra vita libera ma anche economica, è una mafia, cioè, ormai imprenditrice, la mafia che ha i suoi gruppi di commercialisti, finanziari, di strumenti, diciamo, e persone che le consentono di partecipare al mondo degli affari con reinvestimenti di capitali che provengono dagli affari illeciti e con metodologia mafiosa. Porta nella sua attività, nell'imprenditoria, nel mondo della finanza, la sua modalità operativa, che è sempre quella della minaccia, dell'intimidazione, della corruzione. Il mafioso imprenditore, se vogliamo, è ancora più pericoloso, perché non solo reinveste e fa fruttare il suo denaro, ma poi altera l'equilibrio, diciamo, della normale civile e competizione economica. Nei circuiti economici di Milano l'Andrangheta siede al tavolo? L'Andrangheta fa i suoi affari. Qui al nord le occasioni sono molteplici, diciamo, non c'è un settore privilegiato. Tradizionalmente abbiamo parlato di edilizia, scavi e movimento terra, abbiamo trovato presenze, diciamo, di capitali mafiosi in innumerevoli attività commerciali, industriali, nel turismo anni fa a Lecco. Quello che veramente occorrerebbe sarebbe una politica di grande trasparenza. Non è sufficiente quella che già c'è, secondo lei? Normativamente abbiamo delle buone regole. Quello che è assolutamente carente sono, come sempre, ahimè, gli uomini e i mezzi. Ricordo sempre il caso della Direzione Investigativa Antimafia di Milano, che ha competenza sulla Lombardia, che proprio per ciò che riguarda il settore di verifica della regolarità dei grandi appalti è composta da 9 persone. Macchine bloccate nei garage della questura perché incidentate o con il motore rotto, ma mancano i denari per ripararle. È un'immagine quasi eccessiva, ma rispecchia però quella che è la realtà. Ci sono già segnali e inchieste in corso su infiltrazioni dell'Andrangheta nei lavori per l'Expo. A rivelarlo a Radio 24, come abbiamo sentito nella prima parte, è il procuratore aggiunto di Milano, Alberto Nobili, che da anni indaga sulle cosche calabresi, dai tempi del sequestro Sgarella fino ad ora al delitto della collaboratrice di giustizia Lea Garofalo, di cui ha parlato nella prima parte. Ora ripartiamo dalla politica e dall'arresto anche di un sindaco del Pavese in un'operazione seguito del maxi blitz di luglio che ha portato in carcere 300 persone tra Reggio Calabria e Milano. Io direi che è quasi fisiologico che la mafia, quindi i mafiosi, per reinvestire i miliardi di euro abbiano diciamo necessità di entrare in contatto sia con i cosiddetti colletti bianchi, quindi anche con gli ambienti politico-amministrativi. Ho detto prima che il mafioso, anche quando diventa imprenditore, resta mafioso. E allora, se ha a che fare con un amministratore, con un politico onesto, corretto e leale, passa alle armi dell'intimidazione, della minaccia. Se invece ha a che fare con qualcuno più lavorabile, qualcuno più fragile, qualcuno meno leale con le istituzioni, si passa alla corruzione. Mafia e corruzione viaggiano a braccetto. Abbiamo constatato da diverse indagini che purtroppo non tutti i rappresentanti delle istituzioni sono fedeli alle istituzioni. E il mafioso sa come fare, sa chi agganciare, sa convincere, diciamo, le persone e sa capire anche chi è più lavorabile. Quindi anche l'andrangheta di esportazione o di importazione, ormai qui in Lombardia che abbiamo visto quanto è importante nella geografia dell'andrangheta, la Lombardia con i suoi, si calcola, 500 uomini, anche qui decide dove e come spostare i propri voti. Ma guardi, sul numero degli uomini, ahimè, temo che la cifra che lei ha detto sia ribasso, parlando della Lombardia. Comunque sì, certo, anche qui la presenza è ingombrante, preoccupante anche sotto questo profilo, la capacità di poter condizionare alcune competizioni elettorali, specialmente nei comuni dell'Interland, dove storicamente la mafia calabrese si è insediata ormai da tanti anni con una certa predilezione proprio per alcune zone specifiche che conosciamo bene. Ha origini storiche o altre spiegazioni? Ma guardi, direi che tutto nasce nel periodo del boom economico, negli anni 60, quando c'è stata questa forte immigrazione, sono venute su dal sud tante persone per bene, però tra queste c'erano anche persone meno per bene. Per le persone che provenivano dalla Calabria c'è stata una sorta di scelta dei comuni dove andare a vivere vicino Milano, caratterizzata dalla presenza proprio di persone che provenivano dalle stesse zone. Tanto per restare ai soliti esempi di Buccinasco e di Corsico, storicamente sono stati caratterizzati dalla presenza di persone che provenivano da Platì. Tant'è che Buccinasco viene chiamata la Platì del Nord. Lei di 'ndrangheta qui a Milano se ne occupa ormai da tanto tempo. Si occupò anche del famoso caso del sequestro della Sgarella. In questi anni è in qualche modo cambiata la presenza delle cosche calabresi qui? Direi che è cambiato l'affinamento dei loro strumenti, ecco, come soprattutto nel settore del reinvestimento, come dicevamo prima. Negli anni 70 era più rudimentale. Si sono affinati, così come tutto il mondo dell'economia. Il mondo della finanza si è affinato. Alla fine degli anni 70, passata la stagione dei sequestri di persona a scopo di estorsione, e quindi dalla fine degli anni 70, inizi anni 80, quando c'è stato il cosiddetto boom della droga, direi che la struttura, le modalità operative non sono di molto cambiate. Si fanno affari con la droga, si accumulano capitali con la droga, si reinvestono questi capitali nei soliti settori tradizionali. Quello che abbiamo constatato è purtroppo questa maggiore apertura del mondo dell'imprenditoria milanese, l'imprenditoria, diciamo, meneghina, estranea alla cultura mafiosa. Abbiamo con una certa preoccupazione riscontrato così maggiori presenze nel mondo degli affari, del reinvestimento dell'andrangheta, anche di persone che non avevano nulla a che fare con la cultura mafiosa, ma che con questa però, come dicevo prima, strizzano l'occhio e fanno affari. Perché secondo lei? E sono piccoli, medie, grandi realtà? Nel momento in cui c'è anche, come in questi anni, del periodo di crisi economica, comunque la cultura del profitto, la cultura del denaro spesso porta, per fortuna sono una piccola ovviamente, ecco, parlo di una percentuale molto, molto modesta su quella che invece è la massa, diciamo, dell'imprenditoria del nord, fare affari, far denaro, far quattrini, porta spesso molte persone a fare un ragionamento molto semplice: ma io non devo chiedere il certificato penale di chi entra in contatto con me. Anche quando c'è la certezza, però spesso la logica del business e dell'affare o della necessità di risalire la china per chi è in una situazione di crisi porta a chiudersi, fare affari con questa gente. Se fosse, diciamo, una priorità istituzionale locale, forse se ci fosse un clima collettivo di maggiore attenzione, questo forse agevolerebbe molto il contrasto. Ecco, vedete, se noi crediamo, speriamo che il contrasto alla mafia sia un problema che riguarda solo forze dell'ordine in genere e magistrati, veramente siamo messi male. Deve riguardare tutta la società civile. Ma Milano si rende conto di avere l'andrangheta in casa? Oppure, per ritornare alle parole con cui abbiamo iniziato questa chiacchierata, quelle dell'ordinanza del GIP per gli arresti della Garofalo, erroneamente ritiene che questi siano problemi distanti da sé? Al nord la mafia c'è, la mafia è fortemente presente, non è percepibile, quella che nel gergo si chiama l'aria di mafia, diciamo, qui al nord non la si respira, non si sente, diciamo, quella cappa tappa, quella cultura del rispetto, dell'omertà, dell'intimidazione, che invece, ahimè, è spesso ben percepibile in tante zone, soprattutto del centro-sud. Però è inconcepibile e intollerabile che si possa solo perciò dire che qui non c'è la mafia. Questo è un depistaggio, sostenere che qui non c'è la mafia. C'è la mafia più pericolosa, in realtà, perché è quella che fa affari in Milano. Così come nell'economia pulita, nell'economia corretta e lecita, Milano è importante, diciamo, a livello internazionale, ahimè lo è anche per quella che è l'economia sporca, l'economia canaglia. Ma chi opera e chi lavora in questa città ha la percezione e quindi si comporta di conseguenza come chi sa di avere in casa l'andrangheta? Non tutti. A me colpisce sempre quando in alcuni ambienti istituzionali ancora oggi si continui a dire che la mafia qui non c'è. Ecco, questi sono messaggi pericolosi, depistanti, non sono accettabili. Per me è una sorta di campagna elettorale. Dire che in questa città, in questo paese del nord non c'è la mafia è un depistaggio, a mio avviso, a fini elettorali. Dire questo con gli accertamenti che quotidianamente dimostrano il contrario o è ignoranza o è malafede. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare questa intervista sul sito di Radio 24 e da lì accedere anche al nostro audioblog. Scrivetemi, ciao, a sabato!